io non mi muovo, io resto qui. Sarebbe molto più semplice per me andare via, ma guardandomi in faccia dovrei dirmi una bugia. Come vorrei che fosse possibile cambiare il mondo che c'è, ma mi dimentico che dovrei vivere senza di te. Bye.